Vendo tutto di Matteo Caccia. Il mio divano pesa 40 kg, il televisore 15, la Vespa un quintale. La mia collezione di topolini invece di chili ne pesa 17, i miei sci 2, gli scarponi 3. Ma a me non interessa più, perché ho deciso di alleggerirmi di tutto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Vendo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo un ferro da stiro. È la mia vita di seconda mano che è in vendita, non la seconda mano che è una vita in vendita. Il ferro da stiro. Prima di parlare del ferro da stiro oggi però voglio leggervi un passaggio di un libro che mi hanno regalato in questo fine settimana, no? Questa menata degli oggetti, la vita degli oggetti che ogni giorno la meno. Chiaramente gli amici mi fanno dei regali e vorrei leggervi un pezzo di questo libro bellissimo che si chiama Biografie di oggetti e storie di cose, che dice così. Gli oggetti, le cose inanimate, hanno una storia che può essere raccolta e raccontata. Di più, essi hanno una biografia. In che senso un oggetto inanimato potrebbe avere una vita da narrare? Dobbiamo prendere sul serio l'idea che gli oggetti materiali abbiano una propria vita sociale e che per questo vadano considerati come soggetti capaci di contribuire ai processi collettivi di produzione della realtà. Ale, sono le 16:09, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia. Adesso, dopo aver letto questo pezzo così quasi filosofico sugli oggetti, riabbassiamo chiaramente il tiro e parliamo del mio ferro da stiro. Oggi tocca al ferro da stiro, tocca a lui. Giustamente qualcuno già mi ha chiesto prima del programma sul profilo Facebook: cosa farai, poi non stirerai più le cose? In parte sì e in parte no, nel senso che, come avrò modo di raccontarvi a breve, sono capace di stendere bene gli oggetti. Mentre però preparavo la puntata, oggi si parlava proprio delle cose che ti rilassa fare, perché per quanto sembri impossibile ho avuto una sorta di illuminazione riguardo allo stiraggio o alla stiratura, riguardo al ferro da stiro in generale. All'inizio lo odiavo e poi pian piano ho cominciato a capire che quel gesto lì, quello lì di passare il ferro da stiro, piano piano mi rilassava. Ed è cominciata questa bagarre sul profilo Facebook, se volete partecipare siete i benvenuti, per cui tutti quanti dicevano la cosa che li rilassa di più. Per cui Stefano: concordo, anche per me è rilassante stirare a patto di non farlo troppo in fretta. Federico: stirare no, ma cucinare decisamente sì. Valeria: lavorare a maglia mi fa rilassare. Leonardo: confermo, stirare con la radio accesa mi rilassa. E poi ancora Stefano un po'... mi rilassa passare dalla stazione anche solo per osservare la gente che passa, che corre, che inciampa, che parla al telefono. Ale, Stefano. Ma il mio preferito è quello di Alessandra. Alessandra scrive: lo confesso, a me rilassa pulire il bagno. Mi scarica e mi rilassa. 800240024. Se avete voglia di raccontarmi anche voi qual è quell'attività, che non deve essere per forza assurda come pulire il bagno, che vi rilassa, 800240024 oppure 349-238-6666. Io lo ammetto, per me è stirare, oggi ve lo racconterò meglio, a voi basta chiamarmi e raccontarmela. 800240024. Torniamo al ferro da stiro, per vederlo lui è già là, bello, sul sito e su eBay. radio24.it per sentire la sua storia, eccoci qua. Il ferro da stiro. Ferro da stiro a vapore, modello DB1.2 della AFK, colore bianco con serbatoio azzurro, lunghezza 25 cm, larghezza 13 cm, altezza 15 cm. Quattro funzioni: spruzzatura, stiratura a vapore, getto di vapore e stiratura a secco. Quantità di vapore regolabile, piastra in acciaio inossidabile ad alta qualità, serbatoio acqua estraibile, capacità 120 ml. Termostato girevole per tutti i tipi di materiale, segnalatore luminoso di funzionamento, design ergonomico. Le medie dimensioni lo rendono ottimo per seconda casa o viaggio. Valore commerciale 20 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it, per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. L'oggetto che vendo oggi è un ferro da stiro a vapore, vale a dire un elettrodomestico come tanti ce n'è, perfettamente inutile e tra l'altro, se lanciato nella vasca dove stai facendo il bagno, pure dannoso. Dico, avete mai visto John Wayne con i vestiti tutti stirati? Oppure Harrison Ford in Blade Runner tutto liscio? Coi vestiti stirati sarebbero stati delle macchiette. Però, come potete immaginare, mia madre non pensava che io avrei ricalcato le orme di questi eroi quando mi vedevo uscire di casa spiegazzato. Anzi, tutt'altro. Al massimo si metteva le mani sulla bocca e mi guardava storto. E poi così hanno fatto le mie fidanzate e su, fino a tutti i miei datori di lavoro. Tutti hanno sempre mostrato uno sguardo piuttosto perplesso di fronte alle mie camicie non stirate e appena accettabili. Appena accettabili perché erano state semplicemente stese bene. Sì, perché io non sono un animale, cioè so cucinare, so fare le pulizie di casa e so lavare pure i panni. E in più so anche stendere come si deve. Ecco perché le mie camicie e tutti gli altri capi del mio abbigliamento non sono mai stati sdruciti e inguardabili, però non sono mai nemmeno stati perfettamente stirati. Ed ecco perché il ferro che vendo è ancora in ottime condizioni. Perché me l'ha regalato mia madre appena sono uscito di casa e l'ho usato pochissimo. Potrebbe andare molto bene, secondo me, per una seconda casa, tipo una di quelle che si comprano con il mutuo ai liti ferraresi o in qualche valle della Bergamasca. Io ho sempre pensato che stirare fosse una perdita di tempo, un po' come rifare il letto. Adesso, per capirci, voi ve lo immaginate, ad esempio, l'uomo primitivo, Sì, proprio lui, l'uomo di Neanderthal, detto anche per gli amici super nonno, quello da cui tutti noi discendiamo. Ok, lui si alza la mattina e, dovendo muoversi ovviamente per andare in caccia di cibo in compagnia dei suoi due figli, si sistema le pelli che lo coprono e, prima di uscire dalla caverna, sente la moglie che gli urla: tesoro, vorrei mica uscire conciato così, fammi dare una stiratina almeno al colletto della pelliccia. Cioè, davvero io mi domando come dopo un milione di anni siamo ancora schiavi di una camicia stirata, o di una giacca che cade a pennello. Strano, cioè siamo davvero così incapaci di immaginarci senza una divisa, no? Sì, perché dai, alla fine di divisa si tratta. Cioè, non c'è bisogno di un sociologo per dare un nome alle cose. Via le pellicce, via le barbe e i capelli lunghi, nel tempo la civiltà ha prodotto uomini rasati e lisci. Anche voi credete che le persone siano migliori se sono lisce? While the time, she wonders what she had done to him, her toes in the sea. Yeah. Stirare mi fa venire il mal di schiena, perché sono alto e le assi da stiro no. Eppure ho come la sensazione che lì ci sia una qualche verità. Capita spesso che mi fermi sul marciapiede davanti a casa mia ad osservare le due signore che stirano nella tintoria di fronte. A volte mi chiedo addirittura se siano davvero sempre loro, però non saprei rispondere perché tengono la testa bassa. Non so di cosa si tratti esattamente, ma mi sembra che il gesto ripetitivo che vedo fare con le due signore da anni abbia dentro qualcosa di zen, che come tutte le attività sempre uguali a se stesse sia rassicurante, addirittura avvicini alla meditazione. Cosa che tra l'altro si sposterebbe benissimo con la quantità di trieline a pretto che si sono dovute respirare in tutti questi anni, quelle due. Insomma, non è che magari loro stanno meglio di me. Ciò vorrebbe dire che ci sono, nella tintoria sotto casa, due tizie che da anni, alla faccia di tutti i pregiudizi, hanno la possibilità di trascendere la banalità della propria quotidianità stirando e pensando. Pensando intensamente, mentre il loro corpo compie ormai un'azione automatica, esteticamente perfetta, e loro pensano. E io, mentre passo davanti al negozio, le guardo di sfuggita e mi sembra di scorgere i loro volti sereni. Ma cosa staranno pensando? No, veramente, ma cosa accidenti staranno pensando? Magari semplicemente ascoltano la radio. E poi, soprattutto, stirare una camicia non è per niente facile. Si comincia con inumidire la camicia in quanto serve a rendere il tessuto più morbido e quindi a stirare con più facilità. Fate naturalmente attenzione a nebulizzare bene l'acqua, poiché si potrebbero formare delle macchie che vi costringeranno a rilavare la camicia. Questa purtroppo non è una delle due signore della tintoria sotto casa, ma vi assicuro che quando ho visto questo video ho pensato che loro parlerebbero esattamente così. Per eliminare l'impronta del ferro, spruzzategli dell'acqua o immergete il tessuto in una soluzione di 5 cl d'acqua e 2 pizzichi di polvere di borace, oppure passate sulla macchia un batuffolo di cotone imbevuto di acqua ossigenata a 12 volumi. Vi ricordo inoltre che stirare una camicia da uomo con un ferro a vapore a mano ci vogliono dagli 8 ai 10 minuti. Quello che penso io invece è che da un po' di tempo a questa parte mi capita una cosa curiosa, più o meno da quando sono andato a vivere da solo. Mi sono accorto che le lenzuola stirate non mi danno così fastidio come credevo. Quando mia mamma mi ha regalato questo ferro a vapore, ho provato ad usarlo e ammetto, mi ci sono trovato tutto sommato mica male. Ecco, magari non stiro la parte sopra, però quella che copre il materasso fa la differenza. Per non parlare delle camicie, che da qualche tempo mi pare mi diano meno fastidio se prima le ho stirate. e poi vedermele addosso, no? Stanno pure meglio. Insomma, se uno si deve mettere la divisa, tanto vale metterla per bene, no? Io non so bene cosa mi sia successo. Cioè, come sia successo che a un certo punto della mia vita ho avuto un'illuminazione rispetto allo stirare. Oppure se sono una questione di gusti che cambiano. Comunque, pochi giorni fa ho visto un ferro da stiro con la caldaia, avete presente? Era a casa di un'amica. Me lo sono fatto prestare e mi sono passato un pomeriggio a stirare tutto il mio bucato. E mi sono ritrovato a fine giornata sereno, soddisfatto. E vabbè. Eppure, niente, nonostante tutto, nonostante l'uomo di Neanderthal, nonostante le due signore della tintoria, le lenzuola lisce e profumate, io vendo anche questo ferro da stiro a vapore. Il suo valore sul mercato è di 20 euro, base d'asta 99 centesimi. Se invece volete dirmi qual è la cosa che vi rilassa da morire, mi chiamate 80024 0024. Every time we meet, everything is sweet. Ale da Senigallia: mi rilassa lavare i piatti, passare la scopa, tirare il mocio sul parquet. Giordano invece: suonare la batteria come si deve per una mezz'ora, sudo quasi come facessi 2 ore di palestra. E poi Riccardo: mi rilasso quando gioco a Yahtzee col telefonino seduto sulla tazza del bagno. 349-238-6666 ma 80024-0024. Andiamo a sentire Maurizio da Monza. Pronto? Pronto? Ciao Maurizio, sei tu? Eccomi. Allora, la cosa che mi rilassava, perché è lavare i piatti. L'ho scoperto durante il mio periodo faraonico, lo definisco così, tra una moglie e l'altra. Ok, allora aspetta. Quindi... Io abitavo 8 anni fantastici, abitavo in Oltrepò Pavese, il lavello dava proprio su una vigna, da rilassante di suo. E invece la seconda moglie, ma questa me la sono cercata io, è un amante della lavastoviglie, quindi ho perso anche quella cosa. Però non ti fai nemmeno quei 5 minuti prima a ripassare, prima di mettere in lavastoviglie? Mia nonna, no? Quando dico: nonna, guarda, c'è la lavastoviglie. E lei li lava comunque i piatti, nonna, non serve lavarli, c'è la lavastoviglie. Appena posso vado lì, gli do la... Ah, ok. Se no la lavastoviglie non fa bene esattamente come... Ma quindi Maurizio, scusami, tu sei di quelli che anche a casa degli amici, cioè dopo la cena, no, lascia, lavo io che mi rilassa? No, quello no. Ok, però in linea di massima tra una... nel periodo come l'hai definito? Faraonico. Una moglie e l'altra, sette anni e 45, faraonici. Che insomma mi sembra siano stati gli anni più belli della tua vita, da come lo dici. Eri un faraone e lavavi i piatti. Maurizio, grazie mille, buona giornata. Ciao. Andiamo a Verona da Silvia, pronto? Sì, ciao. Ciao Silvia, tutto bene? Benissimo, grazie. Sicura? Hai una voce un po'... Un po' sembri abbacchiata. No, assolutamente. Ok, però dovresti rilassarti in che modo, quindi? Guarda, io mi rilasso da morire andare dal dentista. In che senso, scusami, andare dal dentista? Non lo so, io penso che purtroppo ho dovuto cominciare ad andare dal dentista fin da piccola e credo di aver sviluppato una forma di autodifesa contro il dolore, e quando vado dal dentista mi rilasso. Ma scusami, ma ti rilassa proprio stare sulla poltrona mentre lui ravana col trapano? Sì. O... sì. Ho una sopportazione al dolore, penso, fuori dal comune. Ma cosa dice il tuo analista in proposito, Silvia? Mi fai complimenti. Ah, ok. Beh, effettivamente se trovi rilassante il dolore, ma sia quando ti fa male sia quando non te lo fa, ti rilassa. Ok, quante volte vai dal dentista all'anno? Purtroppo un paio di volte devo andarci. Sono una che in fatto di denti sono un po' sfortunata da me. Ah, credevo dicessi purtroppo poche in realtà. No, beh. Quindi ti rilassi 2 volte all'anno tu, Silvia, più o meno? Sì, okay. Mediamente sì. Va bene, ti ringrazio Silvia. Prendi un appuntamento dal dentista, già che ci sei allora. Va bene. Ciao, buona giornata. Ti vedrò, grazie. Ciao. Andiamo a Bari da Luigi, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera Luigi, come va? Abbastanza bene. Bene, abbastanza siamo in due allora. Com'è che ti rilassi, Luigi? Allora, sembra strano, è un paradosso, ma mi rilasso quando faccio un qualche cosa, che ovviamente va al di fuori di quello che è il mio lavoro quotidiano. Che tu fai, Luigi? Sono un impiegato. Ok. E sabato e la domenica invece lo dedico a tostare il caffè. Ah, ok. Il paradosso qual è? Qual è? Il caffè è un eccitante. Ah, certo, e invece ti rilassa. Ma scusami, ma tu lo bevi quindi anche il caffè? Molto. E quindi per tostare il caffè tu devi comprare dei chicchi apposta, non esatto, tostare particolari? Sì, c'è diversi caffè di diverse origini. No, te lo chiedo perché non bevendo il caffè non so cosa accade, però quando tu lo compri è già tostato, immagino, di solito, no, il caffè. No, assolutamente. No, no, non tu, perdonami, quando si compra al supermercato di solito il caffè è già tostato. Già tostato e macinato, solitamente. E invece tu lo vuoi proprio... Noi lo tostiamo, sì. Ma, io lo tosto. Ma tu hai una macchina per farlo? Sì, sì, esatto. E quanto ci metti? Per tutto quello che mi occorre mi gioco dalle 3 alle 5 ore ogni fine settimana. Ah, ok, perfetto, allora è chiaro. Luigi, ti ringrazio molto. Salve. Ciao, buona giornata. Andiamo a Forlì da Stefano, pronto? Sì, pronto. Ciao, buonasera. Stefano, buonasera. Tutto a Ciao. Posto? Sì, sì, tutto a posto. In che modo ti rilassi tu, Stefano? Niente, io ho un'azienda agricola, lavoro in vigna e diciamo potando da novembre a più o meno a marzo, febbraio, marzo, dipende dalle stagioni, mi rilasso. Una volta ascoltavo, cercavo sempre di ascoltare musica, quindi auricolari vari, sì. Cioè fino a... Adesso invece... No, dopo ho smesso, cioè questa cosa qui dell'avere sempre nelle orecchie sti robi, questo, e allora ho smesso tipo una radio. Completamente. E vado sereno. Ma quindi quello è il tuo lavoro, Stefano? Sì, sì, è perfetto. Il mio lavoro. Quindi il mio ti lavoro. Rilassi facendo il tuo lavoro, pensa che meraviglia. Grazie mille, buona giornata. Niente, Stefano. Grazie a te. Ciao, alla prossima. Dobbiamo chiudere, ma prima di chiudere, visto che è da un po' che non ve li propino, questi sono i miei desideri. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese. Imparare l'arabo. Prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. Ciao Matteo, ti confesso un'eresia, a me rilassa a lavorare. Ebbene sì, la vita piena di responsabilità in casa mi stressa, code, bollette, pagamenti, invece sto al lavoro tranquillo e beato. Ciao William. Grazie a William, grazie però anche a Laura Faggin, Tiziano Bonini, al Genovesi, a Stefano D'Andrea, ma soprattutto a Paolino Corleoni. L'asta della mia vita prosegue domani, ovviamente, con la vendita di uno strumento a percussione che ha fatto la felicità dei miei genitori e dei miei vicini di casa. Domani vendo una coppia di bonghi presi in Marocco. Visto che già me lo chiedono, se volete vedere il video della signora che dà lezioni di stiraggio della camicia, andate sul profilo Facebook, non so com'è possibile, ma io starei a guardarla per ore ininterrottamente. Per vedere il mio ferro da stiro, invece, andate sul sito di Radio 24, radio24.it, e domani, alè, la mia casa intanto continua a svuotarsi, perché alla fine, pure un ferro da stiro, è solo un ferro da stiro. Love, love, love.